Siamo nella terza domenica di Avvento e continuiamo il nostro cammino incontro al Signore che è venuto ma che viene continuamente. Oggi ci viene presentato per la seconda domenica consecutiva Giovanni il Battista. Domenica scorsa abbiamo sentito le sue stesse parole, oggi è Gesù che lo loda e che dice che siete andati a vedere che cosa? Una canna sbattuta dal vento? Una persona tranquilla che vive nella sua ricchezza, nella sua agiatezza, disinteressandosi degli altri? No, certamente, siete andati a vedere che cosa? Un profeta, anzi, più che un profeta. Io mi fermerei un istante su questa parola per vedere che cos'era come profeta Giovanni Battista e se ancora oggi esiste qualche profeta. Il profeta non è, come normalmente si intende, colui che prevede il futuro, vero? Perché colui che prevede il futuro si chiama imbroglione. Si chiama imbroglione. Non c'è nessuno che prevede il futuro. Neanche Gesù stesso nel Vangelo, quando gli hanno chiesto di dire: no, no, nessuno conosce quello che sarà, solo il Padre. E mi fa ridere. L'altro giorno ho ascoltato, non lo faccio mai, ma ero un po' in ritardo, ho ascoltato alla radio quello che fa l'oroscopo. E l'ho ammirato, c'ha una fantasia. Poi mi chiedo, ma tutti i giorni lo cambia? Caspita, deve essere fantasioso come uno scrittore. Nessuno conosce il futuro, amici. Il profeta, la parola deriva dal greco, è composta da due parti. Profeta, potremmo tradurlo con buona approssimazione in italiano, il portavoce, l'altoparlante di Dio. Profeta è colui che è capace di ascoltare il pensiero di Dio, di captarlo e di trasmetterlo ancora a noi. Questo è il profeta. Da questo punto di vista, se vogliamo, dovremmo essere tutti profeti, quanto più penso un educatore, un genitore, un sacerdote. Dovrebbe essere sintonizzato sul pensiero di Dio e poi trasmetterlo nell'oggi. Giovanni Battista ha fatto questo. L'abbiamo sentito domenica scorsa, no? Dovete prepararvi, state attenti a non. Mi trattava razza di vipere, ma chi vi ha insegnato a comportarvi in questo modo? Oggi ci sono ancora dei profeti, oltre a quello che dicevo prima, che ogni genitore dovrebbe essere un profeta, cioè captare quello che è giusto, quello che viene da Dio e trasmetterlo ai figli. Un sacerdote dovrebbe essere profeta. Ci sono altri profeti nel mondo? Ma io credo che ci siano altri profeti nel mondo. Cioè persone capaci di sintonizzarsi sui valori eterni, sui valori che Dio ci dona, e poi trasmetterli all'umanità. Io credo che siano i santi. I santi sono coloro, e non per niente noi li ammiriamo, i santi sono coloro che sono in sintonia con Dio e con la loro stessa vita, prima ancora che con le parole, ci trasmettono il pensiero di Dio. Più in generale io direi che la Chiesa oggi è profeta di Dio. Mi rendo conto che dicendo la Chiesa posso suscitare in qualcuno di voi qualche dubbio, dici ma come? La Chiesa ma non è in crisi, non è in difficoltà. Oh, la Chiesa, non gli uomini di Chiesa. La Chiesa che è la sposa dell'agnello. La Chiesa che secondo una bella definizione è santa e peccatrice. È santa per ciò che riceve da Dio. È peccatrice per ciò che riceve da me e da voi. Per cui la gente guarda noi e dice, caspita, se la santità della Chiesa è quella lì, stiamo freschi. Nello stesso tempo, però, la Chiesa è l'unica realtà al mondo che è profeta di Dio, che è portavoce di Dio. Mi sapreste dire voi se c'è qualche altra organizzazione al mondo che è portavoce di Dio? Chi? Le grandi potenze? Quelle che sono passate, come sono passati gli assiro-babilonesi, gli egiziani, i romani, stiamo certi i greci, l'Inghilterra, regina del mondo, stiamo certi che passeranno anche gli Stati Uniti, passerà anche la Cina, la Russia, passeranno tutti. Che resterà sarà ancora questa piccola chiesa, questo popolo di Dio. Perché? Perché tutti gli altri popoli traggono la loro sapienza da se stessi. La Chiesa trae la sua sapienza da Dio. E se vogliamo dire in definitiva cos'è la sapienza, è il senso dell'esistenza. Perché l'uomo esiste? Il mondo sarà capacissimo di spiegarci come i meccanismi interni, come nasce un uomo, come cresce, come si sviluppa una civiltà, ma perché noi siamo stati creati e perché moriremo. La Chiesa ci dice, siamo stati creati per conoscere, amare, servire Dio in questa vita e goderlo nell'altra in paradiso. Chi ci dice queste parole, amici? Il mondo che ci seduce in tante maniere, ci incanta, ci lusinga, ma non ci dice il perché della vita. Non ci dice il perché della malattia. Ci sa dire il perché della morte? Il perché, amici. E allora vi invito a essere figli della Chiesa santa, figli della Chiesa, discepoli della Chiesa, perché se il profeta è come Giovanni il Battista, che dice il senso della vita e dunque il comportamento che noi dobbiamo avere, provate a riflettere. Adesso io ho fatto un pensiero, la chiamiamo predica, anche se la parola a me non piace tanto, io preferirei dire un insegnamento. Vi ho trasmesso un insegnamento, ma mi piacerebbe che lo faceste voi anche dentro di voi. Perché? Perché? Questa domanda dovrebbe risuonare dentro di noi. E allora andare alla ricerca di qualcuno che ci dia la risposta a questo perché. E forse sarete d'accordo con me che è difficile trovarlo sul mercato, il perché della vita. Alla fin fine lo troviamo dentro nel Vangelo, di cui la Chiesa è profeta.